Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Il miglior commento alla giornata, che quasi certamente ha segnato ieri sera lo scudetto, l'ho letto stamane sul Corriere della Sera in copertina, firma Mario Sconcerti. Scrive Mario: era nell'aria una partita così, di quelle che giochi bene e perdi e in una volta sola paghi tutto quello che per tanto tempo hai avuto. L'Inter torna in testa, la Roma si smarrisce, il Milan scompare, il calcio torna di colpo il gioco normale e confortante che è sempre stato. Nessun sovvertimento di valori, nessuna rivoluzione sentimentale. La buona vecchia vittoria della forza e dell'abbondanza. Difficile adesso possa cambiare qualcosa. Il doppio colpo della Samp all'Olimpico ha un sapore definitivo. La pensano così anche i bookmakers, visto che la quota scudetto dell'Inter è crollata a 1,18, mentre per la Roma è salita da 1,65 a 4,50. Poi c'è un'altra quotazione interessante, già che ci siamo, sempre dello stesso bookmaker, che dà a 4,50 la vittoria dell'Inter in Coppa Campioni con conseguente e immediata partenza di Mourinho per destinazione non tanto ignota, nel senso che a 2,10 Mourinho è dato al Real Madrid e a 2,25 al Liverpool. Mi sembrano bassine come quote, però può essere che sia così. Completiamo le informazioni appena arrivate sul conto di Barcellona Inter, perché è stato confermato, come si era capito da indiscrezioni, che sarà l'arbitro belga De Blecker a dirigere la sfida di mercoledì sera, mentre domani sera Lione Bayern Monaco sarà affidata al miglior arbitro d'Europa attualmente, cioè allo svizzero Busacca. Altre osservazioni in ordine sparso. È stata la stagione, questa lo si può dire, anche se mancano ancora 3 giornate, del fallimento della Juventus. Questo è un dato oggettivo che è noto da mesi, ma a questo punto direi anche della Fiorentina, perché la Fiorentina ha messo insieme 18 punti in meno dello scorso anno. Cioè, lo scorso anno a quest'ora era 64, adesso è 46, mi sembra, con tutte le attenuanti per il cammino in Coppa Campioni, con la sfortuna, chiamiamola così, la sfortuna di aver incontrato l'arbitro Vrebo nella gara d'andata a Monaco, però il rendimento in campionato è davvero molto molto deficitario. È stata la grande stagione di Del Neri, la sua Sampdoria ha guadagnato rispetto all'anno scorso 16 punti e si vedono e si sentono e pesano tutti in classifica, visto che la Samp ha 2 punti di vantaggio sul Palermo per la corsa al quarto posto. Ovviamente rimane insieme a quella del Neri la stagione di Ranieri, perché non sarà una sconfitta e il probabile secondo posto ormai alle spalle dell'Inter a togliere valore a una incredibile rimonta che la Roma aveva compiuto e ai 17 punti ottenuti più della scorsa stagione. Poi, volendo, ci sono altre considerazioni. Per esempio, siamo sicuri che il Napoli con Donadoni avrebbe poi ottenuto molto, ma molto meno di quello che ha fatto con Mazzarri? Lo dico perché lo scorso anno la Sampdoria, per l'appunto, provo a rivedere questo dato, la Sampdoria di Mazzarri aveva 16 punti in meno di quelli che ha fatto quest'anno Del Neri, e quindi questa potrebbe essere una riflessione, visto che il Napoli, e questo lo ricavo dalle statistiche di Franco Piantalida, visto che il Napoli nel giro di ritorno in casa ha ottenuto soltanto 2 vittorie a fronte di 5 pareggi e di 2 sconfitte, e quindi ha rinunciato al sogno Champions, evidentemente tra le mura amiche del San Paolo. Abbiamo parlato di Sampdoria, parliamo anche di Genova. Non è stato forse proprio bellissimo il modo in cui ieri Genova si è arreso alla Lazio. Difatti non è piaciuto a Gasperini, ho letto alcune sue dichiarazioni non tenerissime, non è piaciuto al pubblico, oltre che ovviamente ai terzi interessati in classifica. Prima dei vostri interventi in diretta e poi di sentire le voci di giornata, una in particolare che aprirà la galleria. 2 domande. La prima è: cosa deve fare Camoranesi per essere espulso? Così, per curiosità, perché se non basta una gomitata 2 settimane fa a Conti, né per l'espulsione né per la prova TV, e non basta un colpo di petto a un guardalinee, cioè un contatto fisico contro un assistente, beh, insomma, la domanda mi pare che possa essere lecita. E cosa deve ancora succedere perché il Milan si interroghi magari su Milan Lab, visto che ormai siamo a una quota media partita dagli 8 ai 10 infortunati, e forse a fine stagione sarà interessante vedere se il Milan per caso è riuscito ad avvicinare il primato della Juve in materia in questa stagione. Cominciamo ascoltando le voci dal migliore in campo di ieri, che si chiama, a parer mio, Cristiano Lucarelli. Non solo perché in campo, per l'appunto, ha trascinato il Livorno ad un congedo molto dignitoso, molto orgoglioso dalla Serie A, ma anche per come si è comportato fuori. Sentiamo questo breve frammento. Ho visto a volte fare a schiaffi anche al Parlamento, se mettono il DASPO anche lì siamo tutti più contenti, siamo tutti tutelati alla stessa maniera. Credo che sia una risposta discreta e non così gratuita, no? Alle censure che il ministro dell'Interno ha riservato ai calciatori, che per carità ci potevano anche stare, ma insomma è anche vero che magari insomma, guardare in casa propria in certi casi, o comunque sapere che nessuno è immune da pecche potrebbe essere una buona tecnica. L'uomo del giorno è certamente Del Neri, e allora sentiamo il suo commento a questa strepitosa vittoria all'Olimpico che ha condannato la Roma e ha rilanciato l'Inter verso lo scudetto. La squadra del secondo tempo è maturata un po' più del primo tempo. Il primo tempo mi ha sofferto la qualità e l'aggressività della Roma, cosa che invece doveva essere l'incontrario, dovevamo essere noi a essere più aggressivi. Invece ho visto una Roma molto pimpante, molto decisa, ha creato parecchie difficoltà. Noi eravamo timidi nel senso che soffrivamo molto probabilmente l'ambiente, la tensione, e questo non mi è piaciuto della mia squadra. Deve essere invece più coraggiosa, più giusta, soffrire di più, magari perdere anche le partite, ma essere più coraggiosa, più forte a livello mentale. Certo, non è che siamo abituati sempre a essere in testa alla classifica, però adesso bisogna abituarci un attimo a sopportare anche la pressione del dover vincere, e questo mi sembra sia una cosa importante, avendo la vista stasera. Insomma, non ho mai detto che un giocatore fa squadra, un giocatore deve andare dentro la squadra, deve giocare, deve sacrificarsi, deve correre. La Sampdoria è questa adesso. Poi è chiaro che i solisti, i giocatori di grande fiuto del gol, come lui, come Antonio, hanno questa qualità e la mettono a disposizione della squadra. Penso che con i gol suoi la Sampdoria avrà un futuro importante, e anche lui penso che avrà un futuro importante in chiave nazionale. Tra le delusioni, scrive Max da Lignano, c'è da mettere anche l'Udinese. Purtroppo abbiamo pagato una difesa al di sotto delle aspettative, scrive questo ascoltatore. È verissimo, cioè, l'Udinese che lotta fino all'ultimo, poi insomma, forse fino al penultimo, perché con il risultato di ieri si è praticamente salvata, ma insomma l'Udinese che lotta fino a 3 giornate dalla fine non ci sta con quell'organico, perlomeno con l'organico da metà campo in avanti. Poi è vero che la difesa si è rivelata più fragile del previsto. Terza sconfitta consecutiva, altre curiosità per il Milan allo Stadio Barbera, un Milan che insomma può essere variamente interpretato o già in vacanza, o già troppo proiettato nel futuro, oppure troppo falcidiato dagli infortuni, come si diceva prima. Certo che nelle ultime 7 partite ha ottenuto 1 vittoria, 3 pareggi e 3 sconfitte. Non crede, domanda Andrea da Milano, che le convocazioni per il Mondiale contribuiscano a un miglior finale di campionato? Non c'è dubbio, Pazzini ne è la prova lampante. Insomma, ieri credo che si sia deciso, credo che una casella dello scacchiere di 23 pedine di Lippi ieri si sia riempita proprio col nome di Pazzini, e si sia svuotata definitivamente dalla tentazione di Amauri in compenso, se parliamo di quello stesso ruolo. Quindi in questo senso il finale di campionato, ma in particolare il finale è particolarmente interessante. Sergio, vorrei lei elogiasse la grande pacatezza di Ranieri, non faccio nessuna fatica e credo che la cosa migliore sia ascoltarlo direttamente. Chiedo ancora un attimo di pazienza agli amici già collegati da Rieti, da Genova, da Verona e dalla provincia di Padova. Sentiamo Ranieri. 1.0 era la stessa cosa, perché se pareggiavamo dovevamo fare sempre poi le 3 vittorie, sperare sempre che in un pareggio dell'Inter, allora si arriva a tutte e 2 a 80 punti e noi negli scontri diretti siamo messi meglio. Prima eravamo padroni del nostro destino, adesso non lo siamo più. Tanto come lo valuto io non conta nulla, l'ho sempre detto, come lo valuta Collina, quella è la cosa più giusta. Noi lo possiamo valutare bene o male, sotto pressione, delusi, tutte queste cose qua. Collina è freddo e vedrà lui se c'erano gli estremi per qualche rigore, se è tutto filato liscio, insomma. Lo scudetto per noi si deciderà all'ultimo secondo a Chievo, e noi ci dobbiamo essere determinati, volitivi, così come abbiamo fatto per quante sono state? 24 giornate. Dobbiamo continuare. Siamo caduti e dobbiamo rialzarci al più presto. La Roma, secondo lei, domanda Damiano, si deve concentrare ora solo sulla finale di Coppa Italia? Beh, credo che sia l'obiettivo più realistico a questo punto. Si giocherà il prossimo mercoledì all'Olimpico, però io credo che insomma, credo che ci vorranno 2 o 3 giorni almeno per sbaltire la batosta di ieri sera, ma poi penso anche che la trasferta di Parma sia l'allenamento migliore alla finale di Coppa Italia per ritrovare la condizione psicofisica, e quindi allenamento nel senso di provare ad ogni costo a vincere quella partita. partita della serie non si sa mai, anche se più o meno mi pare che si possa, se non sapere, perlomeno intuire. Eugenio ha chiamato da Rieti, buongiorno. Buongiorno, dottor Tanzini. Dica. Volevo intanto ringraziarla per la sua bella trasmissione, che parla del fatto tecnico del calcio, che è diventata una cosa estremamente rara. Le altre sono spesso dei pollai, le altre trasmissioni a cui siamo costretti ad assistere. Ecco, ma veniamo alla domanda. Io volevo domandarle quante possibilità secondo lei abbiamo di passare il turno col Barcellona, e poi soprattutto, io sono un cinquantenne, ancora ricordo la tremenda botta che avemmo nel 67, allora ero un bambino, ma non è che rimarremo con un pugno di mosche in mano anche in campionato poi alla fine. Volevo da lei una risposta franca, ecco, dicendo la verità, a un vecchio tifoso interista. Io credo che gli eventi epocali non si ripetano mai. Oddio, sono passati, cominciano a passare 43 anni, quindi potrebbe esserci, insomma, diciamo che di acqua sotto i ponti è passata, per cui la storia potrebbe cominciare anche a pensare di fare uno sberleffo e ripetersi. Però insomma, un doppio dopo risultato di ieri sera dell'Olimpico, credo che il campionato sia abbastanza in archivio, anche per la concomitanza di altri risultati, anche perché la Lazio certamente farà meno volentieri di fare un piacere alla Roma, e dopo il trattamento della scorsa domenica credo che ci stia e sia legittimo. La Lazio ha vinto ieri una partita chiave a Genova, per l'appunto contro un Genova che mi è sembrato meno feroce del solito, e questo è ovvio che insomma, si rifletterà anche sulla partita di domenica sera. Il discorso di mercoledì invece è completamente diverso. Cioè, a me accade molto raramente di essere d'accordo con Mourinho, però quando lui ha detto un minuto dopo la fine della partita d'andata che le possibilità restavano 50-50, io credo che non sia andato molto lontano dalla verità. Credo che l'Inter sia favorita mercoledì sera, ma lo sia in una misura abbastanza contenuta, perché il Barcellona sul suo campo è una squadra che, se trova la serata giusta, il problema è vedere se la trova è ancora in grado certamente di provare a dare una bambola agli avversari, indipendentemente da come gli avversari sono. Certo, se sono l'Inter delle ultime 3-4 partite in Europa, fa certamente molta fatica e probabilmente non ci riuscirà. Da Genova, Marco, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Senta, io sono un tifoso milanista. Sì. Niente, volevo dire, dalla sua esperienza, allora, sono un po' deluso perché partiamo con 3 obiettivi, anche se abbiamo una squadra molto vecchia. Io voglio dire, a essere un pochettino umili e a dire, tentiamo col campionato, tentiamo con la Champions League, ma io dico, la Coppa Italia non poteva essere usata per far giocare giocatori della primavera, visto che l'hanno anche vinta. Io vedo il Barcellona che fa giocare sempre ragazzi giovani, mentre noi, cazzo, siamo costretti ogni volta a far giocare gente che ha 40 anni. Quando è che li facciamo giocare questi giocatori? È una scelta precisa della società, Marco, e non credo che una botta di turpiloquio radiofonico possa raddrizzare la politica, raddrizzare o comunque orientare diversamente, mettiamola così, la politica societaria. Hanno scelto il profilo geriatrico e evidentemente se lo portano avanti fino alla fine. C'è anche una coerenza in questo, no? Nel senso che hai deciso che questo era l'anno, questo era il ciclo dei senatori, e vai avanti con i senatori fino alla fine. Poi si può essere d'accordo o meno, lei mi pare che non lo sia in maniera abbastanza schierata, io nemmeno, perché sinceramente faccio un po' fatica a capire. Oltretutto mi pare che quando la squadra è stata innervata dalla freschezza degli Abate e degli Antonini, certo, gli Abate e gli Antonini non sono i cursori dei tempi d'oro, no, del Milan, però mi sembra che il loro contributo l'abbiano portato, e certamente hanno fatto un'esperienza che in futuro potrebbe giovare alla squadra oltre che a loro. Da Verona, Mario, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini. Dica. Senta, io intanto volevo usare la sua radio per ringraziare pubblicamente il signor Ranieri, sempre con la S maiuscola, perché mi sta riconciliando col calcio. Io credo che sia un oggetto estraneo questo mondo del nostro campionato, cioè veramente lo sto veramente ammirando, e parlo da tifoso milanista, quindi ecco. Poi un'altra roba, propongo al Milan l'anno prossimo dal Milan Lab di fare un Milan Lourdes, visto gli infortuni, ecco. Milan Lourdes non è male. E poi un'ultimissima roba, ecco, cosa ne pensa delle squadre di del Neri, che qua abbiamo ammirato al Chievo, che puntualmente in primavera rifioriscono dopo un momento di appartamento invernale? Secondo lei è questione di una rosa ristretta oppure dell'altro? Grazie. No, io penso che sia questione di metodi di preparazione, di convinzione in certi metodi. In effetti insomma, il grafico del rendimento delle squadre di Ranieri è sempre piuttosto simile. Io credo che dipenda anche da una questione di campi, e cioè dal fatto che sui campi pesanti il gioco di Del Neri fa un po' più fatica, perché è basato essenzialmente sugli esterni. Io insomma Ranieri l'ho scoperto 10 anni fa, quando debuttò in Serie A alla guida del Chievo, e oggi come allora gli esterni sono fondamentali, e oggi come allora lui, insomma, a parte ieri sera, perché ieri sera si trattava veramente di cambiare una squadra il più possibile, perché non stava funzionando, e il primo tempo se finiva regolare finiva 3-0 per la Roma. Lui in genere cambia proprio gli esterni per primi, perché a loro chiede un lavoro doppio e di particolarissima intensità. Agostino chiama dalla provincia di Padova. Sì, buongiorno Garattini. Dica. Dunque, due domande molto semplici. Beh, intanto complimenti al Cittadella Calcio, io sono di Cittadella, vedo che sta facendo un eccellente campionato di B, speriamo in Dio che ci possa portare là. Non scomoderei Dio per queste. Per queste, lei lo scomodo di lei, ma insomma non è mai... Lascerei che si occupasse di cose più serie. Di cose più importanti, ecco, anche vero. Ma insomma, ecco, così, in cuor ci spero. Un'altra cosa, io sono simpatizzante dell'Inter. Secondo lei, l'atteggiamento della Lazio, della partita della Vicema che c'è domenica sera, quale sarà l'approccio alla gara, secondo lei, onestamente? Dipenderà, io credo, in grande misura dal risultato di Atalanta-Bologna del pomeriggio. La Lazio giocherà la sera, e quindi con 6 punti, rimarranno soltanto 6 punti in palio. Se l'Atalanta avesse perso dal Bologna in casa, credo che la Lazio potrebbe fare mente locale a quel simpatico finale di partita del derby della scorsa settimana, oltre che a una rivalità storica, epocale, che conosciamo benissimo. Se per caso invece l'Atalanta dovesse fare anche soltanto un punto, ma soprattutto 3, e arrivare a 37, io credo che la Lazio la sua partita se la debba giocare, o perlomeno provare a giocare, magari con la riserva mentale di fare un favore a quelli là, però io credo giocarsela seriamente a quel punto. Quindi in realtà molto dell'atteggiamento laziale, se non tutto dell'atteggiamento laziale di domenica sera, dipende dal risultato di Atalanta-Bologna di domenica. Facciamo in tempo a sentire ancora sulla linea, chi non c'è, sulla 6, esatto, Marco da Pisa, buongiorno. Buongiorno, grazie. Dica. Due cose viste. Una, complimenti anch'io a Ranieri, a De Rossi, perché nel post partita ha riconosciuto i meriti della Sampdoria, ha detto che la squadra si meritava di vincere, ma non ha rubato niente la Sampdoria, non ha tirato fuori episodi strani come ha fatto la signora Sensi, che secondo me non era opportuno, visto l'andamento del campionato della Roma. Mi sembra che la Roma si meriterebbe di vincere lo scudetto, però non ha avuto grossi favoritismi né grosse sfide, come ha detto, penso l'Inter, quelle due squadre si meritano di essere lì a combattersi il campionato, se lo merita più la Roma per la rosa meno competitiva, ma se lo meriterebbe o forse l'avrebbe meritato di più la Roma, perché è Davide contro Golia, e quindi insomma io credo che, però vede, il problema secondo me è stato questo, che Davide contro Golia può vincere una battaglia, cioè un combattimento. Se è una corsa a tappe, cioè, o se è un combattimento a puntate, io credo che alla fine, soprattutto se Davide parte con un handicap con cui è partito quest'anno la Roma, alla fine è inevitabile che Davide non abbia un momento di cedimento e che la spunti Golia, se vogliamo restare nella metafora. Beh, questa è una curiosità davvero. La 35esima di Serie A, cioè la giornata di ieri, ha non battuto, ma abbattuto il precedente record stagionale di spettatori allo stadio, perché tra sabato e domenica si è registrata una media di 31.191 presenze, superando di gran lunga il precedente primato, che era di 29.600. Stagionale, sempre. Erano 10 anni che in Serie A non si superava quota 31.000 di media vuol dire per stadio, ed è ovvio che a favorire questo numero c'è l'incertezza del campionato. Dunque il 64.000 spettatori a San Siro per Inter Atalanta, 56 per Roma Sampdoria, 41.450 a Napoli, quasi 26.000 a Palermo, e insomma si rischia, almeno così fa notare la Lega Calcio, di stabilire con cioè di superare il record degli ultimi 10 anni, e cioè anzi di più, perché il dato più alto, tornando indietro, lo si trova nel 97-98 con 9.577.000 spettatori, che è la somma sempre di paganti e abbonati, e quest'anno la proiezione rischia di arrivarci molto, perlomeno molto vicino, se non addirittura di superarla. Prima degli amici collegati da Napoli, da Milano e da Firenze, io renderei però omaggio alla salvezza che per me rimane a ogni stagione che succede, rimane la più bella e apparentemente la più miracolosa, che è quella del Chievo. Stavolta è arrivata ufficialmente, era arrivata da parecchio, ma ufficialmente è arrivata comunque con 3 giornate d'anticipo e al termine di una partita sofferta, come spesso accade al Chievo. Sarà un caso, ma la squadra che ha subito più calci di rigore, che si è vista decretare più calci di rigore per pura combinazione, è il Chievo, no? Che ha un rapporto di 2 rigori a favore e 10 contro, compreso quello di ieri che non c'era, come tanti altri nel corso della stagione. Eppure, nonostante questo, a 3 giornate dalla fine il Chievo è salvo. Sentiamo il suo artefice, Di Carlo. Salvarsi a 3 giorni dalla fine, voglio dire, bisogna fare i complimenti alla squadra, che sono straordinari, fantastici. Penso che Sorrentino, Pellissieri hanno fatto veramente la differenza, e secondo me bisogna fare i complimenti soprattutto a tutti quelli che hanno creduto e che hanno lavorato per arrivare a questo obiettivo. Chievo, quando vuol vincere e ha bisogno di punti, porta a casa sempre qualcosa di importante. Io penso che bisogna fare i complimenti soprattutto anche al fatto che siamo la seconda miglior difesa del campionato ad oggi, e questo è tutto dire. La salvezza è arrivata attraverso questa organizzazione di gioco e questa grande volontà e umiltà dei ragazzi di mettersi sempre in discussione, ma lavorare soprattutto a quello che è l'obiettivo importante, che è la salvezza, che viene raggiunta con una vittoria a Firenze, e sapete benissimo che significa, voglio dire, contro una grande squadra in una grande piazza. Rende ancora meglio di più a questi ragazzi questa salvezza. Segnalava Di Carlo, seconda miglior difesa del campionato per il Chievo, questo non era davvero mai accaduto. Ha subito 34 gol, 3 soli gol in più dell'Inter, che ha la difesa migliore. Antonio ha chiamato dalla provincia di Napoli, buongiorno. Buongiorno, senta, io volevo parlare un po' degli allenatori. Praticamente volevo parlare prima di Gasperini, che l'anno scorso era considerato quasi un santone, quest'anno diciamo il Genoa non ha ripetuto quello che ha fatto l'anno scorso. Per non parlare pure di Del Neri, che è andato a Porto e con la Roma non è riuscito a fare niente, quest'anno sta andando bene. Pure lo stesso Mourinho è stato esonerato dal Chelsea, e un illustre sconosciuto, Adam Grant, ha preso il Chelsea, l'ha portato in finale, è quasi in finale di Champions League, è quasi, diciamo, la vinceva. Quindi io volevo un po' il suo giudizio su questo fatto, di questi allenatori che, cioè, una volta sono grandi, una volta sono piccoli. Mi sembra un po', diciamo, incoerente, un po' una sorta di, non lo so come vorrei definire, volevo il suo parere. Magari siamo dello stesso club, quello che dicono che i giocatori contano abbastanza poco, perché i calciatori secondo me sono quelli che fanno la differenza. Volevo un suo parere. La penso esattamente al contrario di lei. La differenza la fa la fiducia che la società, la fiducia e le risorse che la società mette a disposizione di un allenatore, e poi questo in partenza, e poi soprattutto la squadra. Se hai giocatori bravi e oltretutto disponibili che ti seguano, eccetera, se ne hai e più bravi ne hai e disponibili e con il giusto mix tra talenti e portatori d'acqua, più hai questo genere di giocatori, più questo genere di squadre, di assemblaggi, e più lontano andrai. Ma questo da che calcio è calcio? Non c'è, in questi parametri non c'è calcio antico, calcio moderno, più o meno recente. La storia del calcio insegna questo, e non mi pare che sia ancora cambiato. Poi ci può essere uno più adatto ad un ambiente anziché ad un altro. Questo è possibilissimo, e però vale come per i calciatori. È difficile sapere prima se uno può rendere di più da una parte o dall'altra, ma rendere in base proprio a quei parametri, cioè di come la società si comporta nei tuoi confronti, quanta fiducia ti dà, quante risorse, disponibilità e di conseguenza quanto la squadra ti crede e ti segue. Severino, Milano, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini. Io sono uno juventino con Giulio Recchi pieno di bastonate sulla schiena, ma al di là di questo Volevo ricordare solamente una cosa, che insomma qui stiamo per spacciata la Roma, considerando che comunque sia l'Inter deve andare a giocare a Roma con la Lazio, e qualche anno fa con la Lazio è successo qualche cosa all'ultima giornata che probabilmente gli interisti si ricordano ancora. Tutto certo. Volevo solamente dire questo e basta. Sì, io volevo anche ricordare quello che ricordava un ascoltatore di prima, che quel giorno, quel famoso 5 maggio, ci fu molta attenzione prima a come si sarebbe comportata la Lazio e poca a come si sarebbe comportata l'Udinese, che giocava con la Juventus. Ma credo che si stia commettendo adesso non lo stesso errore, perché allora c'erano altri parametri e c'era un altro habitat nei campionati, un altro humus, no? Che forse poi è anche saltato fuori. Adesso che secondo me la situazione è diversa, c'è comunque anche qui un errore di prospettiva, nel senso che si pensa soltanto a come giocherà la Lazio domenica sera e non si pensa al fatto che la Roma prima deve andare a Parma. Secondo me la partita di Parma sarebbe stata un ostacolo seriamente alto per la Roma, anche se non fosse stata battuta ieri sera la Sampdoria, a maggior ragione un ostacolo alto adesso. Quindi io andrei per tappe e quindi vedrei prima sabato alle 6 come finisce Parma-Roma, perché è evidente che se la Roma non vince quella partita si autocondanna in maniera definitiva. Nel caso la vincesse, poi si vedrà Lazio-Inter, si vedrà come giocherà la Lazio, e molto, l'ho già detto prima, dipenderà dal risultato di poche ore antecedente di Atalanta-Bologna. Aldo, Firenze, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Senta, abbia pietà di uno sconsolato tifoso romanista, no? Perché oggi ci aggrappiamo anche ai coriandoli proprio. Però, ci aggrappiamo ai coriandoli è carina. No, perché proprio a proposito di quello che stavate dicendo anche nelle ultime telefonate, sarebbe forse opportuno giocarle tutte insieme queste partite qui, o no? Perché non mi sembra neanche giusto che poi la Lazio abbia la possibilità di guardare cosa fa l'Atalanta. È vero che la Roma deve sempre giocare, che per l'amor del cielo, però mi sembra di ricordare che negli anni scorsi le ultime giornate venissero giocate tutte in contemporanea. Sì, sì, il margine, sì, certo. Cioè, una volta si giocava tutti in contemporanea, poi si è rimasti per molti anni alle ultime quattro giornate, che quindi avrebbero compreso anche quella di ieri, e adesso si è arrivati a due, ma le anticipo che presto si arriverà a nessuna, nel senso che tanto questo calcio è svenduto, no? Palesemente alle televisioni, e le televisioni vogliono evidentemente orari differenziati, quindi non credo che... Non solo non si tornerà indietro, ma credo che si andrà sempre avanti. Poi parlare di regolarità, non regolarità, ma, insomma, accade anche all'estero, e all'estero di queste domande se ne fanno di meno. È anche vero che il nostro è un paese un po' speciale da questo punto di vista, no? E spesso quando si sente puzza di bruciato, poi effettivamente un po' d'arrosto che se n'è andato sotto cera. Fausto, Como, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini. Dica. Niente, io volevo intervenire sulla partita di ieri sera, no? Sì. Ho letto diverse cose sui giornali, ho sentito le trasmissioni e hanno decantato tutti la Sampdoria. Però secondo me la Roma ha fatto una grossa partita e la Sampdoria ha tirato in porta due volte, perché Storari è stato il migliore in campo. E non si può dire che la Sampdoria, come ho letto, meritava di vincere, perché ci sono stati degli episodi sfavorevoli alla Roma. Fausto, io penso si possa dire che la Sampdoria non ha rubato niente, perché ha fatto la sua onesta partita. Tra l'altro mi fa piacere sottolineare che ha fatto la sua onesta partita, così come onesta è stata la Roma da un punto di vista della correttezza. L'abbraccio finale tra Totti e Cassano, che come è noto non si amano, mi sembra sia il compendio, no, di questo clima molto corretto e molto civile che c'era che c'era in campo. La Sampdoria per me non ha rubato nulla. Lei dice ha tirato due volte in porta. No, ha tirato anche 4 o 5, se per quello. Un paio di tiri nel secondo tempo sono fischiati fuori di poco. Nel primo ha avuto un'occasione Cassano, dopo un minuto ha fermato Cassano con un errore clamoroso su un fuorigioco che non c'era, eccetera. Detto questo, se il primo tempo finisce 3-0 per la Roma, visto che Cassano l'aveva fermato e comunque doveva ancora far gol, non c'era, non solo non c'era nulla da dire, ma era la fotografia della partita. Nel secondo io penso che quando i due cambi della Sampdoria hanno mutato, e si vedeva a occhio nudo, hanno mutato anche dalla TV, hanno mutato un po' i rapporti di forza in campo, io credo che qualcosina si potesse provare a tentare di diverso da Toni, perché inserire Toni dal mio punto di vista è autocondannarsi ad un gioco solo, e mentre invece la Roma, i Taddei, i Brighi, insomma i Tonetto, forse qualche risorsa diversa l'avrebbero consentita, ma questo è probabilmente il senno di poi, che però sto senno di poi ieri sera un po' di dubbi me li aveva instillati dopo pochi minuti della ripresa. Beh, insomma, il nostro borsino dell'export, non dell'import export, dell'export, mi pare che stia andando meglio, perché qualcosina di buono riusciamo per l'appunto a mandare all'estero. Per esempio la nostra mentalità. Allora sentite, Amburgo a 3 giorni dalle semifinali di Europa League contro il Fulham, 0-0 all'andata, l'Amburgo ha esonerato il tecnico Labbadia per la sconfitta 5-1 di sabato contro l'Hoffenheim. Labbadia verrà sostituito da uno dei suoi assistenti, l'olandese Moniz, che rimarrà in carica fino al termine della stagione. Ammazza, gli fa fare la bellezza di 2 partite di campionato più questo ritorno di Coppa, più l'eventuale finale. Questo, insomma, Amburgo è così lontano, ma qualcosa di non strano mi pare che in fondo ce l'abbia. Il ripasso della storia con Nicola Filippone. Sembra ieri. 26 aprile 1981, 25esima giornata di campionato. Il Napoli di Rino Marchesi è sorprendentemente in testa alla classifica insieme a Juve e Roma. Sulla carta il turno è favorevole ai partenopei, che ospitano al San Paolo il fanalino di coda Perugia. Ma gli Umbri si portano in vantaggio dopo solo un minuto, grazie a un'autorete di Ferrario, che da solo in area indirizza nella propria porta un cross, convinto di avere alle spalle un avversario che in realtà era lontano. I 90 minuti di assedio degli azzurri alla porta difesa da Malizia si rivelano inutili. Finisce 1-0 per il Perugia. Il Napoli non supererà lo shock per la sconfitta in attesa e chiuderà il campionato al terzo posto, a 4 punti dalla capolista Juventus. Giuseppe ha chiamato da Pescara, buongiorno. Garanzini, buongiorno, mi sente? Certo. Salve, buongiorno. Ascolti, volevo fare una piccola analisi e sapere anche il suo giudizio. Spenga magari la radio, per cortesia. Sì, no, c'ho il vivavoce in macchina, un attimo che passa. Mi sente adesso? Molto meglio, grazie. Vabbè, scusi. Volevo dire, per quanto riguarda la Roma, no, e il suo allenatore Ranieri, questo allenatore di cui se ne decantano sempre le qualità, la serietà e la grande professionalità, non mi pare che poi alla fine abbia vinto qualcosa anche in giro per il mondo, no? Da Valencia a Chelsea a tutto quanto. Mi sembra tanto un allenatore, come dire, Orcino Knaus, cioè quando si avvicina il momento cruciale della stagione, e le sue squadre non riescono mai a portare a casa nulla, e quindi rimangono sempre con un pugno di mosche in mano. E quindi niente, volevo solo un attimino ridimensionare la figura, certo, di Ranieri. Anche la Juventus l'anno scorso credo che abbia fatto bene poi sostanzialmente a sostituirlo. Come no, infatti la Juventus ne ha avuto grandi benefici, no? Che mi pare siano sotto gli occhi di tutti. Quanto a questo genere di telefonata, l'aspettavo dalle 15, no, dalle 14, sempre ancora il vecchio orario incorporato dei primi anni di A Tempo di Sport. L'aspettavo dalle 14.07-08 circa, quindi essendo arrivata solo ai 48 abbondante, evidentemente siamo già leggermente fuori norma rispetto a quello che immaginavo. Gian Pietro, Verona, buongiorno. Sì, salve Garanzini. Allora, caliamo un velo pietoso sull'ultima telefonata, sulla quale mi trovo completamente in disaccordo. Comunque, bisogna avere il coraggio delle proprie opinioni. Comunque, io mi volevo complimentare con lei e ringraziarla per la salvezza del Chievo che ha decantato, visto che se ne parla sempre poco di questa realtà. E in secondaria importanza, ma secondo me abbastanza è un discorso che dovrà essere affrontato prima o poi, da un esperto sportivo come lei mi piacerebbe sapere che soluzione può trovare per quello che lei ha notato per il Chievo, ma vale per tantissime altre squadre di provincia. Secondo me qua rischiamo veramente di inventare un calcio diverso da quello che è, perché guardi, giusto per parlare di altre partite, forse mi sono sbagliato, però io ieri sul 0-0 tra Siena e Udinese ho visto un gol che mi sembrava regolarissimo del Siena, che se fosse stato convalidato, poi l'errore arbitrale ci può stare, come avrebbe cambiato completamente l'esito della partita. Allora, vabbè, per carità, gli errori ci possono stare, la mia preoccupazione è questa diciamo distorsione. Quando ci sono degli errori sulle grandi squadre, gli arbitri vanno discussi, fomentati, commentati, giudicati, valutati. Vabbè, ma Gianpietro, mi scusi, sembra che il Chievo, lei è tifoso del Chievo palesemente, sembra che il Chievo sia arrivato ieri in Serie A. Il Chievo c'era 10 anni, cioè che lei non abbia ancora fatto mente locale da una parte e il Callo dall'altra, rassegnandosi fin d'ora che sarà sempre così, che dare un rigore contro il Chievo che non c'era fa notizia relativamente, negare un rigore al Chievo che invece c'era fa di nuovo notizia molto relativamente. Poi due volte all'anno il Chievo protesta, ma con molta educazione, con molto garbo, e il bilancio a fine anno è sempre che, se parliamo di rigori, no, ma poi potremmo parlare anche di altri aspetti arbitrali, insomma, chi parte più parti dal basso e più sai che il vento è contro. E questo ormai, ripeto, credo che nel vostro bel quartiere a Verona, vicino a una delle più belle chiese d'Europa, vicino a San Zeno, credo che sappiate, no, che il film è questo. Ed è inutile che vi illudiate che possa cambiare. Massimo ha chiamato da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini. Dica. La sua analisi sul Chievo e quant'altro mi rilascia a quello del precedente ascoltatore. Mi ha fatto venire in mente una riflessione sulla quale volevo una sua riflessione. Sono un milanista, ho 51 anni, lo sono da 40, quindi ho visto un po' di Milan ultimamente. Sì. Leonardo Di Carlo, cioè Di Carlo, seconda difesa del campionato, e a parte la meravigliosa follia di Arrigo Sacchi, punto, e mi fermo qua, per il resto mi sembra di pensare che Leonardo, meraviglioso uomo, meraviglioso dirigente, meraviglioso giocatore quando giocava, inseguendo questo suo sogno veramente un po' folle di un Brasile che peraltro non ha vinto nulla, era bellissimo, non ha vinto nulla, alla fine finisca per soccombere contro allenatori, e quindi speriamo l'anno prossimo, con tutto l'amore per Leonardo, che arrivi qualcun altro, allenatori che invece della cultura del lavoro, organizzazione di gioco, organizzazione difensiva, che era il pilastro di Sacchi, hanno fatto una vera cultura del lavoro e del gioco. Allora mi chiedo, abbiamo veramente perso un anno inseguendo un sogno che era un sogno con la S maiuscola, punto di domanda? Secondo me sì, completamente, ma non l'ha perso Leonardo questo anno, perché Leonardo ha fatto legna col fuoco che ha fatto fuoco con la legna che aveva. Come tutti gli allenatori fanno fuoco con la legna che hanno. Dov'è che è stata brava quest'anno la Sampdoria? È stata brava quando Ranieri ha detto toglietemi dai piedi Cassano, io Cassano non lo reggo più, e se volete che ritroviamo Cassano per quello che ci serve, e cioè che torni a essere decisivo per noi, bisogna che me lo lasciate far fuori per un po'. Insomma, adesso vado per le spicce, insomma, semplifico, ma il concetto è questo, e evidentemente così è andata. Se invece c'è una società in cui ci sono alcuni giocatori intoccabili, se ti sbagli a fare qualcosa interviene o presidente, e già tutta la ma non solo la campagna, ma la campagna marketing e tutto il resto è imperniata sulle star, sulle vecchie glorie, è diverso. Io credo che alla fine, per me, quest'anno Leonardo ha fatto miracoli, perché se ci ricordiamo come il Milan è partito e quali erano le possibilità che il Milan aveva in quel momento, prima del recupero di Nesta, che poi purtroppo gli è mancato di nuovo alla fine, sembrava un'annata destinata a essere tragica. Secondo me è stato bravissimo Leonardo a raddrizzarle, addirittura a portare il Milan a un passo dal giocarsi il titolo. Poi è crollato perché nel frattempo gli ulteriori guasti di Milan Lab, opinione personalissima, si sono abbattuti sulla squadra quando proprio poteva partire la volata finale, visto che l'Inter aveva perso colpi. Pasquale Salerno, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Garanzini, e complimenti per la trasmissione. Volevo fare un'osservazione sui tifosi, ho osservato tifosi della Juve, io sono un tifoso juventino. Mi sembra che effettivamente quest'anno, al di là di tutti i demeriti della squadra, perché abbiamo visto che lì ci sono carenze psicologiche, fisiche e tutto, che continuano a comportarsi in quel modo lì, io penso che non risolvano nessun problema, anzi se erano veramente dei tifosi potevano anche stare più vicini alla squadra, però sinceramente lei mi dirà che non appartiene alla nostra cultura. Un'altra cosa, un appello, per quanto riguarda Ballotelli per me rimane un grandissimo calciatore, Pasquale, velocissimo, stiamo chiudendo, però ha sbagliato procuratore, è un mio di origine del paese di Angri, però praticamente lì non si deve far condizionare, perché lui è un patrimonio per la nazionale, almeno io credo che... Pasquale, grazie, c'era in redazione Franco Piantanidea con Flavio Suardi, c'era Carmelo Lauricella in regia, abbiamo leggermente sforato i tempi oggi, una trentina di secondi, me ne dispiace, grazie, un saluto a tutti, a domani.